La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la storia e la memoria. Questa sera l'approfondimento di Dino Pesole è dedicato alla figura di Riccardo Lombardi, uno dei protagonisti della resistenza al fascismo e della costruzione della Repubblica Democratica. Ospita i nostri microfoni Andrea Ricciardi, studioso di storia contemporanea presso l'Università di Milano. Nella seconda parte continuiamo a seguire, dopo la puntata della scorsa settimana, l'avanzata anglo-americana della Seconda Guerra Mondiale dal Nord Africa alla Sicilia, sotto la guida del generale Patton, il generale d'acciaio. Ma ora la parola va a Dino Pesole. Riccardo Lombardi è stato un protagonista della resistenza al fascismo e della costruzione della Repubblica Democratica. Ricordo personalmente di Lombardi la qualità e l'originalità delle analisi e delle elaborazioni, così come ne ricordo l'inconfondibile timbro della sua razionale e appassionata oratoria, la costante attenzione al dialogo nella sinistra italiana e alla ricerca di nuove intese e prospettive per il governo del Paese. Con queste parole il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha rievocato la scorsa settimana la figura di Riccardo Lombardi in un messaggio inviato all'associazione Riccardo Lombardi in occasione del 25esimo anniversario della sua scomparsa. Riccardo Lombardi è stato un dirigente politico di primo piano nell'Italia del secondo dopoguerra. Di formazione cattolica, aderì al Partito Popolare Italiano di Don Luigi Sturzo per avvicinarsi più tardi alla cultura marxista. Dopo la soppressione dei partiti politici decretata il 5 novembre del 1926, continuò a partecipare all'attività clandestina con esponenti antifascisti di varie tendenze. Aderì al movimento Giustizia e Libertà e nel 1942 fu tra i fondatori del Partito d'Azione. Dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, militò nella Resistenza quale tenente generale delle brigate Giustizia e Libertà. Nel 1945-46 partecipò al primo governo De Gasperi in qualità di ministro dei trasporti. È stato componente della Consulta Nazionale, dell'Assemblea Costituente e della Camera dei Deputati ininterrottamente fino al 1983. Allo scioglimento del Partito d'Azione nel 1947 aderì al Partito Socialista Italiano. Solo nel 1956, dopo l'invasione sovietica dell'Ungheria, Nenni, col suo appoggio, denunciò il patto di unità d'azione col Partito Comunista Italiano. Ottenne altresì che il PSI votasse in favore dei trattati di Roma. Nel luglio del 1964 la corrente lombardiana, da lui guidata, decise di non partecipare al secondo governo Moro, denunciando l'involuzione conservatrice della politica del centro-sinistra. Da quel momento la sua fu una posizione di critica costruttiva nei confronti della maggioranza del suo partito. Tutto ciò fino al 1976, quando con il famoso congresso del Midas venne eletto segretario Bettino Craxi. L'apporto della corrente di Lombardi fu determinante. Lombardi sostenne in effetti il nuovo segretario anche quando fu presentato il progetto socialista durante il congresso di Torino del 1978. Infatti poi fu eletto presidente nazionale del Partito Socialista nel gennaio dell'80, ma si dimise due mesi dopo a causa proprio dell'isolamento dovuto alla sua posizione di minoranza, posizione in cui si era ritrovato all'interno della sua stessa corrente della sinistra socialista, di cui pure era stato leader ed ispiratore. Abbiamo in linea Andrea Ricciardi, che è studioso di storia politica nell'ambito dell'insegnamento di storia contemporanea alla Facoltà di Scienze Politiche all'Università di Milano. Grazie per aver accettato il nostro invito. Prima grazie di tutto a lei, buonasera. Allora, lei si è occupato a lungo della figura di Riccardo Lombardi, ha partecipato proprio lo scorso 7 novembre a un convegno a Torino su Lombardi 25 anni dopo, con un intervento proprio dal titolo Il riformismo socialista di Riccardo Lombardi. Riccardo Lombardi in effetti fu una figura scomoda per la sinistra italiana. Sì, è stato scomodo perché nel corso della seconda metà del Novecento ha avuto talvolta posizioni di minoranza, però è stato anche un uomo che ha deciso molto in una certa stagione della politica socialista. Mi riferisco all'apertura a sinistra, per esempio, e al contributo che Lombardi ebbe nella nascita del quarto governo Fanfani e nel cambiamento del quadro politico. Bisogna dire che al di là della sua storia socialista non si può dimenticare che egli è stato un costituente, è stato un dirigente del Partito d'Azione, è stato un uomo della Resistenza, il primo prefetto di Milano Libera, quindi è un uomo che al di là della militanza nel Partito Socialista aveva già, come dire, una storia alle spalle di un certo spessore. In realtà è stato sì un uomo anche scomodo, perché dal luglio 1964, cioè da quando si formò il secondo governo Moro, siamo nell'ambito del centro-sinistra cosiddetto organico, Lombardi passò all'opposizione e ruppe la corrente autonomista e quindi si divise, diciamo, rispetto al percorso Binenni, tanto per essere chiari. Da quel momento in avanti sì, le sue posizioni furono abbastanza minoritarie, però egli continuò a perseguire il suo disegno. Il mio intervento a cui lei ha fatto riferimento, il riformismo socialista di Riccardo Lombardi, non era intitolato così a caso, nel senso che il riformismo di Riccardo Lombardi si voleva in qualche modo collocare tra la socialdemocrazia e il socialismo reale, perché quello che egli ha cercato di fare a fianco ad altri compagni era tutto sommato svolgere un'opera di ricerca verso il superamento del capitalismo. Questo è un aspetto centrale per Riccardo Lombardi e che si deve sottolineare, ma non appunto verso il socialismo reale, naturalmente di stampo sovietico, ma neanche verso la socialdemocrazia, che per Lombardi era un punto di partenza più che un punto d'arrivo. Ecco, sono passati solo 25 anni dalla scomparsa di Lombardi, in realtà poi sembrano veramente dei secoli se noi guardiamo poi a quel che è accaduto nella politica italiana, soprattutto negli ultimi 15 anni. All'interno di questo quadro che è profondamente mutato, lei pensa che ci sia nella sinistra italiana una qualche eredità percepibile dell'insegnamento, della figura, dell'azione politica di Riccardo Lombardi, oppure diciamo del tutto sfumata? Ma guardi, c'è un aspetto centrale in questo ragionamento. Riccardo Lombardi fa parte di una generazione di persone che hanno posto in stretto rapporto l'etica e la politica. Oggi mi pare che questo sia un momento in cui questi due concetti sono molto distanti e sbaglia chi pensa che mettere in rapporto etica e politica significhi fare del moralismo. Riccardo Lombardi a suo tempo, non unico, pensava che la sinistra dovesse dare l'esempio da questo punto di vista e che, non potendo limitarsi ad amministrare l'esistente o peggio a fare della politica un mezzo per gestire gli affari, ci dovesse appunto essere questo contenuto etico nella sua azione. Da questo punto di vista credo che Riccardo Lombardi, come Vittorio Foa, come altre persone, come Antonio Giolitti eccetera, siano persone superate purtroppo. Anche la sobrietà che caratterizzava Riccardo Lombardi, la puntualità nelle riunioni di partito, la sua presenza in Parlamento regolare, ecco tutti segnali di un mondo che forse è passato. Le persone con cui ho avuto occasione di lavorare, che sono state anche amiche, come Vittorio Foa, che ho già nominato, ma appunto penso a Ruffolo, Trentin, Bertinotti, di Lombardi mi hanno detto tutti le stesse cose. Questo aspetto del rapporto tra etica e politica mi sembra una cosa centrale per lui e forse molto distante da oggi. Ben ritrovati alla Storia e la Memoria. Nella puntata della scorsa settimana vi abbiamo fatto ascoltare la ricostruzione dell'avanzata dell'esercito americano nel Nord Africa, fino al respingimento in mare delle forze dell'asse nella primavera del 1943. L'autore di questa vittoria è il discusso generale Patton, il generale d'acciaio, un soldato audace, coraggioso, che sta in prima linea coi propri soldati, ma anche un uomo rude e dai modi bruschi, non sempre apprezzati né dai suoi sottoposti né dai suoi superiori. Primavera del 1943. Gli alleati celebrano la loro prima sorprendente vittoria contro i nazisti in Nord Africa. Il sogno di Hitler di un dominio incondizionato sul Mediterraneo è distrutto e 250.000 soldati tedeschi e italiani vengono catturati. A Casablanca, il presidente Franklin Roosevelt e il primo ministro inglese Winston Churchill devono decidere dove sferrare il prossimo attacco. Rick Atkinson, autore di An Army at Dawn. C'erano 500.000 di soldati in Nord Africa. Dovevano essere impiegati e la Sicilia sembrò il passo più naturale. La Sicilia è a soli 160 chilometri dal Nord Africa e può essere un'ottima base per bombardare la Germania e un buon trampolino di lancio per invadere l'Italia e fare pressione su Benito Mussolini. Il comandante delle forze alleate della regione è il generale Dwight Eisenhower, affiancato dal maresciallo di campo inglese Sir Harold Alexander. Ma al comando delle truppe americane che puntano alla Sicilia c'è il generale George Patton. Ma al comando delle forze di invasione alleate c'è anche il rivale di Patton, l'inglese Montgomery. Il piano prevede un attacco su due fronti. Nome in codice, Operazione Husky. Mentre le forze inglesi assalteranno la costa sud-orientale, la settima armata di Patton sbarcherà su tre punti cruciali lungo la costa sud-occidentale. Sicilia, 10 luglio 1943, 3 del mattino. Le navi da guerra americane attaccano i fortini e le postazioni di fuoco nemiche che si trovano lungo la costa. Gli inglesi sbarcano sulla costa sud-orientale e gli americani su quella sud-occidentale. Patton osserva dal suo quartier generale sulla USS Monrovia, mentre il primo mezzo da sbarco si dirige verso la spiaggia di Gela. Ancora Rick Atkinson. Per gli italiani fu un brutto colpo. All'improvviso si trovarono invasi e tutto d'un tratto si affacciarono e si videro circondati dalle navi da guerra nemiche. Ce n'erano abbastanza da coprire l'intero orizzonte. Peter Haval, 753° Battaglione Carri. La prima vittima del nostro sbarco nel sud della Sicilia fu il comandante di compagnia. E ricordo un altro sergente del secondo plotone. Era stato uno dei nostri istruttori in Louisiana. Venne colpita alla testa e poi alla gola da un cecchino e cadde. Intanto a Gela la resistenza nemica sta diventando sempre più forte per i soldati del Grande Uno Rosso, la prima divisione di fanteria, che si trovano di fronte alle truppe italiane e alla potenza di fuoco dei carri armati Renault R-35. Andrew Jacobson, prima divisione fanteria. Erano disorientati, ma erano dappertutto. Molti però vennero fatti fuori. Colpendo i cingoli cominciavano a muoversi in circolo. Non lontano dalla riva, lo USS Boise apre un fuoco di sbarramento proprio mentre le forze corazzate italiane si fanno strada verso Gela. Aiutate dalla marina, le truppe di Patton riescono a fermare il contrattacco. Per Patton, questo è il momento di spostarsi verso l'interno per attaccare e distruggere. Ma ciò che il generale e il suo comando non sanno è che le forze tedesche si stanno preparando al contrattacco. Al comando di tutte le forze dell'asse di stanza nel Mediterraneo c'è il feldmaresciallo Albert Kesselring, detto il sorridente. Lo scrittore Atkinson. Sfortunatamente gli americani si trovarono a combattere più e più volte contro Kesselring nel Mediterraneo. Egli riusciva sempre a spostare le sue forze là dove servivano con incredibile velocità. Da buon bavarese era spavaldo. Aveva cominciato come artigliere e poi, all'età di 40 anni, aveva imparato a volare. Questo gli aveva fornito una prospettiva e una larghezza di vedute non frequenti fra i generali dell'esercito. Kesselring non ha intenzione di combattere contro Patton colpo a colpo. La sua strategia è quella di indebolire il generale e rallentarne l'avanzata. Kesselring sapeva che la Sicilia, alla fine, sarebbe caduta, ma voleva che il nemico penasse a lungo. Decine di carri armati tedeschi e centinaia di soldati ben armati si riversano verso le linee americane. I nuovi Mark VI Tiger sono rivestiti da una corazza spessa 100 mm. Pesano 57 tonnellate, hanno una velocità massima di 37 km orari e montano un cannone da 88 mm che può raggiungere il bersaglio a 1,5 km di distanza. Da dietro le linee, l'artiglieria americana spara sui mezzi corazzati nemici. I proiettili da 105 mm rallentano l'avanzata del nemico e fanno strage delle truppe panzer che si lasciano sorprendere allo scoperto. Ma non è abbastanza. Patton sa che per fermare i Tiger servono più che fucilieri e artiglieria. Martin Morgan, storico. Urlò agli ufficiali della Marina di aprire quel dannato fuoco, o non avrebbero fermato l'offensiva. In pochi minuti, i cannoni dell'incrociatore Boise e delle sue sorelle di ferro e acciaio sparano a raffica. Ancora Andrew Jacobson. Spazzarono via tutto. I colpi erano precisissimi. E non ci volle molto prima che i mezzi nemici, non ancora esplosi, cominciassero a fare dietro fronte ritirandosi. Mentre le colonne di carri armati tedeschi vengono distrutte dal fuoco dei cannoni da 152 mm della Marina, Patton arriva sulla linea di fuoco. Dirige personalmente i mortai sulle truppe tedesche, in una gola appena fuori gela. Gli uomini sparano colpi al fosforo bianco su fanteria e carri armati. Più tardi, Patton scriverà sul suo diario. Sembrava fossero impazziti. Correvano come matti per uscire da quella gola, strillando come dervisci, con le mani sopra la testa. Ora il nemico, tedeschi e italiani, è terrorizzato dal fosforo bianco e non posso proprio biasimarlo. La settima armata di Patton ha cambiato le sorti della battaglia di Gela. Il contrattacco nemico è stato annientato. La testa di sbarco tiene. La prima divisione di fanteria ha fatto fronte al peggior assalto tedesco e Patton festeggia. Ma anche se a Gela Patton e i suoi comandanti tirano un sospiro di sollievo, un disastro sta per abbattersi sulla settima armata. Il generale Patton ordina l'arrivo di nuove truppe dal Nord Africa. Ancora Rick Atkinson. Cominciò subito ad avere dei ripensamenti su questa scelta, perché la rotta di volo avrebbe portato gli aerei con i rinforzi proprio sopra la flotta alleata e poiché c'era il silenzio radio, non poteva contattarli. Ore 22:40. I cannonieri americani, in mare e sulle spiagge, sono in allerta, osservano il cielo e si aspettano un altro attacco tedesco. Improvvisamente, fra le nuvole sparse, appare un'ombra scura. Sono aerei militari. Nel cielo notturno illuminato dai colpi, Austin Fernald e i suoi compagni sparano sugli aerei che ritengono nemici. Appena li vidi, pensai che erano un po' bassi. Li prendemmo per bombardieri tedeschi, come quelli che ci mitragliavano sulla spiaggia. 300 metri più su. Uno a uno, i C-47 vengono fatti fuori dalla contraerea americana. Finalmente, i comandanti di batteria della Marina e dell'esercito capiscono di aver commesso un terribile errore. Ma è troppo tardi. Malgrado il cessate il fuoco, il disastro è spaventoso. 318 soldati sono morti. Il generale Patton è furioso e così gli ufficiali superiori. Il generale Dwight Eisenhower reagisce con severità. Rick Atkinson. Inviò a Patton un messaggio pungente e gli disse che era sulla base della sua autorità che aveva approvato il piano. Ora voleva la garanzia che sarebbero state prese tutte le misure necessarie per evitare altre catastrofi. Patton ha conquistato la spiaggia di Gela e rinforzato la testa di ponte, ma il disgraziato abbattimento da parte della sua flotta, degli aerei alleati che portavano i rifornimenti, rischia di offuscare la vittoria e di screditarlo agli occhi dei comandi superiori. Quale conseguenza dell'incidente di fuoco amico, l'11 luglio Patton decide di fare qualcosa per riscattare non solo la propria reputazione, ma quella di tutto l'esercito, mentre Montgomery combatte a nord. Patton vola in Tunisia al quartier generale di Harold Alexander con un piano di attacco audace. Mentre Monty combatte con le sue truppe da sud verso Messina, il generale d'acciaio vuole condurre la sua settima armata in un'impetuosa corsa verso Palermo, lungo la costa nord dell'isola. Se verrà preso, il capoluogo offrirà alla flotta alleata una base cruciale per le operazioni. Rick Atkinson, autore di An Army at Dawn. Alexander non si fidava degli americani e delle loro effettive capacità di fare la guerra. Tuttavia, sebbene non ritenesse Patton uno dei migliori, sapeva che se anche gli avesse detto di no, il generale avrebbe potuto procedere comunque. Così approvò il piano e gli disse di portare con sé una grossa squadra di ricognizione. Era l'inizio di ciò che si rivelò un'operazione di vasta portata. Patton divide le forze su due fronti. Il generale Omar Bradley condurrà le truppe dritto a nord verso Nicosia, così da spaccare in due l'isola e le truppe d'occupazione. Intanto, con Patton al comando, un secondo corpo di mezzi corazzati e fanteria si spingerà rapido su Palermo. Se l'esercito del generale d'acciaio avrà successo, la città principale della Sicilia e tutta la metà occidentale saranno in mani americane e questa vittoria sarà il suo riscatto. Le truppe puntano verso Palermo pronte all'azione e pronte ad incontrare il nemico in battaglia. Patton sta per condurre così l'attacco che ha sempre desiderato, un assalto rapido e audace al cuore del nemico. Albert Kesselring non ha intenzione di sacrificare le sue truppe migliori in Sicilia e ordina alle forze speciali tedesche di ripiegare verso nord-est e scavare trincee sulle alture intorno all'Etna. A questo punto, fra Patton e Palermo, ci sono solo truppe italiane demoralizzate e male addestrate. Andrew Jacobson, prima divisione fanteria. Appena venivano catturati, la vittoria era semplice. Ed è vero che il nemico è il nemico, tuttavia i veri avversari non erano gli italiani, ma i tedeschi. Intanto a est, le truppe di Omar Bradley si spingono sempre più nell'interno e si trovano di nuovo faccia a faccia con gli incalliti assassini della divisione Panzer. La prima divisione di fanteria sta attraversando una cittadina e Andrew Jacobson e il suo plotone di fucilieri risalgono le strette stradine a caccia della fanteria nemica. All'improvviso, proprio vicino alla piazza, si imbattono in un Mark VI Tiger. Per prima cosa vedemmo l'88 mm sbucare da dietro l'angolo. Poi apparve il carro armato. Stava dando un'occhiata in giro, ma noi eravamo ben nascosti. Il comandante di plotone chiede un bazooka per spazzare via il Tiger e sperando di guadagnarsi una medaglia, Jacobson si offre volontario. Se mi fossi caricato quell'affare sulla spalla, mi sarei preso una stella d'argento. Così presi il bazooka e mi diressi verso il Tiger. Jacobson prende posizione, pronto a colpire il carro armato con un colpo esplosivo. Ma quando la torretta si gira verso di lui, rimane impietrito davanti al muso del cannone. Sapevo che mi stava vedendo, così tirai giù il bazooka e corsi al riparo. Quando mi avvicinai al tenente, lui mi chiese se volevo ancora quella stella d'argento. Quel Tiger era davvero spaventoso. Alcuni minuti dopo, un carro armato americano e l'artiglieria sono nel raggio di tiro e sparano sul Tiger. Un'altra città cade nelle mani della squadra speciale della prima divisione. Intanto, 96 km ad ovest, l'armata di Patton è alle porte di Palermo. Sergente maggiore Errol James Snyder, attualmente in servizio. Erano implacabili. Ed era solo questione di tempo prima che si arrendessero. Nessuno poteva fermarle. Il 23 luglio 1943, a 4 giorni dalla partenza, Patton e la sua trionfante armata marciano per le strade di Palermo. Per la 7ª armata di Patton, la guerra è tutt'altro che finita. Montgomery è ancora bloccato sull'altro lato dell'isola. E l'attenzione di Patton si rivolge a Messina, l'ultimo passo prima della vittoria finale. Se riesce a battere il rivale, il generale potrà definitivamente rivendicare la gloria, per sé e per l'esercito americano. Colonnello John Antel, storico. Se ha sapore di successo è difficile fermarsi. E lo stesso valeva per Patton. Era impossibile fermarlo. Patton è pronto ad affrontare tutto quello che Kesselring e Guzzoni tenteranno di fare. In una lettera alla moglie Beatrice scrive: «La guerra è lungi dall'essere finita, ma stiamo vincendo alla grande. Non ho la minima idea di cosa stia per accadere, ma fino a quando avrò la possibilità di farlo, combatterò comunque, non importa dove, quando o contro chi. Di tutti i giochi, è questo il più grandioso». Nei giorni seguenti, Patton e il suo esercito dovranno affrontare la loro maggiore sfida. La battaglia per la Sicilia continua e le truppe devono dirigersi sull'Etna, verso 80 km di alture nemiche fortificate. Da quella posizione i tedeschi possono contrastare qualunque azione. Messina è la meta di questa corsa all'ultimo sangue. 14 agosto 1943. La settima armata di Patton è ormai in vista del suo obiettivo, il porto di Messina. Quando Peter e Vail e i carristi del 753° battaglione arrivano a pochi chilometri dalla città, hanno un primo assaggio delle difese tedesche. Eravamo in colonna e arrivammo alla fine della strada, ad una sorta di fossato, largo 15 metri e profondo 30. Appena passato il primo carro, i tedeschi aprirono il fuoco. La colonna corazzata viene sorpresa allo scoperto e rischia di essere fatta a pezzi a pochi metri dal traguardo. L'artiglieria nemica protegge ancora la periferia di Messina per coprire la ritirata dei tedeschi. Il comandante di Evail ordina ai carri di arretrare e ripararsi dietro una fila di edifici. Ci mettemmo al sicuro e rispondemmo al fuoco, in attesa di decidere cosa fare. Arrivò subito una jeep e indovinate chi ne saltò fuori? Patton. Chiamò il tenente e gli chiese lumi. Lui disse che avremmo dovuto attaccare. E Patton, allora muovete il culo e attaccate. I carri partono all'attacco, facendo fuoco. E Vail dirige il fuoco del suo cannoniere e i piccoli carri Stewart fanno fuoco su ogni cosa che si muova. Dicevo, ore 10. Lui puntava e beccava il cannone tedesco in pieno. Boom! Avanzavamo senza fermarci. Era pieno di veicoli in fiamme, con un puzzo terribile di carne bruciata. Da lì in poi la strada per Messina era aperta, libera. È la mezzanotte del 17 agosto 1943. Navi tedesche fanno la spola fra Messina e la Calabria, evacuando il grosso delle forze tedesche dall'isola appena prima dell'arrivo delle truppe americane e inglesi. La strategia di opposizione e ritirata scelta da Kesselring ha funzionato. Alcune ore dopo, gli esausti GI americani raggiungono finalmente la periferia di Messina, con l'ordine di impedire a qualsiasi unità inglese di entrare finché il generale d'acciaio in persona non abbia fatto il suo ingresso trionfale. Ma è una vittoria amara. Rick Atkinson. Non è affatto un trionfo. L'isola è liberata. Patton è vittorioso, ma è nei guai fino al collo. Alcuni giorni prima, Patton ha preso a schiaffi due soldati colpiti da sindrome da stress post-traumatico. L'incidente è stato tenuto nascosto, ma la notizia finisce per venire a galla e il risultato è disastroso. Eisenhower scrisse una lettera di fuoco a Patton dicendo: «È il più grande dolore di tutta la mia carriera, ma devo avanzare dubbi sulla vostra attitudine all'alto comando». Kevin Heimel, storico. Ha ottenuto la più grande vittoria americana in Europa fino a quel punto. La sua settima armata non ha mai perso. Eppure, Patton finirà con l'essere rimosso per aver schiaffeggiato due soldati. Sebbene gli alleati abbiano conquistato una fondamentale base operativa in Europa, la vittoria in Sicilia è giunta ad un prezzo terribile. In 38 giorni di battaglia, la Settima Armata ha perso 2.237 uomini e conta circa 6.500 feriti. In tutto, le forze alleate hanno avuto 24.000 vittime, fra morti, feriti e ammalati. Colonnello McMaster, attualmente in servizio. Quella in Sicilia è sempre stata considerata una vittoria amara, perché pur sconfitte, le forze tedesche riuscirono a lasciare l'isola praticamente intatte. Gli americani avrebbero incontrato di nuovo quelle forze in Italia, rifocillate e ben equipaggiate. Mentre Patton è costretto ad andarsene, buona parte dei suoi soldati combatte sotto altri generali. Tutto ciò che Patton può fare è sperare in una rivincita e pregare per un'altra chance di affrontare il nemico. Vi ricordiamo che la versione integrale del documentario che avete appena ascoltato è prodotto da AETN e andrà in onda su History Channel martedì 17 alle 21. Un ringraziamento in redazione a Gloria Guerrera e Emanuela Sicuro. La storia e la memoria vi dà appuntamento a sabato prossimo. Buonanotte.